Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Caro direttore, non pensa che Umberto Bossi stia esagerando? Va bene che la Lega ha vinto le ultime elezioni, ma questo non può voler dire mettere le mani sulle banche. Vogliamo forse tornare al sistema delle banche pubbliche, con nomine del tutto politiche come nel secolo scorso? Non dovrebbe essere ormai consolidata l'autonomia del sistema bancario dalla politica? Umberto. Caro Umberto, il sistema bancario italiano ha fatto dei grandi passi avanti negli ultimi anni, con una strategia di integrazioni che hanno permesso la formazione di grandi gruppi e con la salvaguardia di un sistema di piccole e medie banche maggiormente legate al territorio, che hanno salvaguardato la pluralità e la concorrenza. È vero, il sistema bancario si è progressivamente affrancato dalla politica, soprattutto dagli anni in cui tutte le grandi banche facevano parte di quelle che si chiamavano partecipazioni statali. E questo ha anche permesso di affidare la gestione delle banche a manager come Corrado Passera o Alessandro Profumo, di alta professionalità, di grande competenza e soprattutto di coraggiosa visione strategica. Ma attenzione, questo non vuol dire che la politica sia completamente uscita di scena. Le grandi banche hanno, per esempio, tra i loro maggiori azionisti le fondazioni che hanno ereditato il patrimonio di controllo delle casse di risparmio. E i componenti dei consigli di amministrazione delle fondazioni sono nominati direttamente o indirettamente, a seconda dei diversi statuti, proprio dagli enti territoriali, i comuni, le province, le regioni. Già ora, quindi, la politica è in qualche modo presente e non si vede perché quello che era valido in passato, cioè in questi casi nomine politiche, non possa essere valido in futuro, solo perché è la Lega a voler designare i propri uomini. Certo, questo non vuol dire, speriamo, mettere le mani sulle banche. Vi è da augurarsi, infatti, che il cammino ancora in corso di progressiva autonomia del sistema possa continuare. Soltanto una osservazione sulla correlazione tra pedofilia e omosessualità. Se anche l'80% dei pedofili fossero omosessuali, questo non comporterebbe necessariamente una tendenza degli omosessuali a essere pedofili. Forse significherebbe semplicemente che il campione è polarizzato, ovvero che forse, studiando la popolazione dei preti anche non pedofili, si troverebbe già una percentuale alta di omosessuali. Come dire, quando il preconcetto guida l'interpretazione dei fatti. Salvatore. Non capisco come si possa stigmatizzare chi usa la parola normale contrapposto al termine omosessuale. Un ladro è uno normale? No, la norma è che non si ruba. Una persona che non guarda la TV è normale? No, oggi quasi tutti hanno una TV in casa. Dire un omosessuale non è una persona normale è una frase onesta e trasparente. L'omosessualità è un reato? No. È immorale? No. Ma è normale? No. Se lo fosse, ci saremmo estinti milioni di anni fa. Quello che la società considera normale, e tempo fa anche morale, è semplicemente quello che fa la maggioranza. Tutto qui. Marcello. Il mio pensiero sui pedofili è il seguente. Eterosessualità, omosessualità, voyeurismo, sadismo e pedofilia sono tutte pulsioni sessuali che derivano da quello che siamo e che abbiamo dentro. Intendo geni, cromosomi, educazione ricevuta, eccetera. Dal punto di vista teorico, i vari tipi di libido sono tutti allo stesso livello. Poi, certamente, la pedofilia è un reato perché fa male ai minori e come tale deve essere sanzionata e punita. I pedofili nociono alla società, quindi devono essere emarginati, non curati, perché le pulsioni sessuali sono incorreggibili, essendo governate solo dall'istinto. Dire che i pedofili siano malati e tutti gli altri no è una grossa cavolata. Siamo tutti quello che siamo, ma la maggior parte di noi ha la fortuna di sfogare i propri istinti in una maniera legittima. Mario. Scrivo in merito alla questione Chiesa-pedofilia. La Chiesa ha sì negli ultimi tempi un atteggiamento duro contro la pedofilia, anche pubblico, ma solo perché, come sempre accade, sono scappati i buoi, con gli scandali venuti fuori prima negli Stati Uniti, poi in Irlanda, poi in Germania, eccetera, eccetera. Questo non significa che la Chiesa sia da condannare in tutta la sua interezza. È ovvio che ci sono il 99% dei preti, almeno spero, che sono bravissime persone e non hanno nulla a che fare con la pedofilia. Il problema, però, è che la Chiesa ha sempre nascosto al suo interno la pedofilia. Per questo motivo trovo che l'attacco alla Chiesa abbia assolutamente senso. Perché mai la Chiesa dovrebbe affrontare il problema in modo diverso rispetto ad uno Stato normale? Stefano. Su 60.000 casi di pedofilia negli Stati Uniti, lo 0,06% è a carico di preti. Questo vuol dire che su una popolazione complessiva di 360 milioni di abitanti, i preti pedofili rappresentano lo 0,00016%. Forse sarebbe ora di imparare a fare i conti. Lorenzo. La protesta delle mamme di Adro contro colui che ha pagato per chi non poteva versare la retta della mensa dei bambini mi ha fatto rabbrividire. Dicono che non è giusto nei confronti di chi invece paga regolarmente. Un concetto di giustizia squallido che uccide la solidarietà, la fratellanza, l'amore, come va di moda dire oggi. A queste dolci mamme non disturbava che il vicino del proprio figlio, che non aveva potuto pagare la retta, stesse lì a guardare a digiuno il proprio figlio che pranzava. Ha disturbato invece il fatto che un privato compisse un atto di umanità che, si badi bene, nulla toglieva alle dolci mamme, ma che consentiva a chi non poteva di essere come gli altri, di non essere emarginato. Non credevo che si potessero raggiungere tali livelli di egoismo, di invidia, di disumanità. Le dolci mamme dovevano essere liete per la soluzione di un problema mortificante per l'intera comunità. Come si fa a credere nell'uomo? Giuseppe. Egregio direttore, sono stufo di sentir dire stupidaggini sulla storia delle mense scolastiche e dei bambini lasciati senza pasto. Nelle eterne discussioni intorno a questa vicenda ci si dimentica l'aspetto principale della questione, e cioè che siamo in Italia. E in Italia chi non paga non è sempre il più povero o il più indigente, anzi spesso è semplicemente il più furbo, il più ladro, il più disonesto. Ha mai notato che in ogni condominio che si rispetti c'è sempre e immancabilmente almeno una famiglia che per principio non contribuisce alle spese condominiali? Difficilmente si tratta della famiglia più indigente, che al contrario molto spesso fa sacrifici enormi pur di non rimanere indietro con i pagamenti e non fare la figura del povero. La verità è invece che quasi sempre chi non paga è quello che se ne frega, quello che tanto pagheranno gli altri, quello che tanto non mi fanno nulla. E magari cambia auto, telefono e TV ogni 6 mesi e va in vacanza alle Maldive alla faccia di chi paga. Penso che sia anche per causa di gente naif, come quell'imprenditore di Adro, se l'Italia va a rotoli ed è diventata il paese dei balocchi, il paese dei furbetti, il paese dell'evasione fiscale, dei condoni, degli scudi, degli insulti, delle prescrizioni, delle impunità e di ogni sorta di porcheria volta a cancellare dal vocabolario la parola responsabilità. Qui non stiamo parlando di bambini denutriti, intenti a elemosinare un tozzo di pane con la ciotola vuota in mano, ma di genitori scellerati e irresponsabili, che si fanno scudo dei loro figli per fare i furbi e per non chiedere aiuto ai servizi sociali per paura degli accertamenti. Tanto pagheranno gli altri. Questa è la vergogna. Smettiamola di prenderci in giro. Marco. Ritengo che la vicenda di Adro sia paradigmatica, una vera istantanea dello stato dell'Italia. Alcuni genitori sono in difficoltà, altri forse fanno i furbi. I bambini ci vanno di mezzo, grazie a un provvedimento che non è completamente ingiusto, e lo stallo generato fa comodo sia alla destra che alla sinistra. Da una parte si fa vedere che non c'è lassismo, che il diritto padano non si fa impressionare neppure dai bambini. Per la sinistra, invece, i bambini diventano un eccellente esempio di quanto siano beceri e selvaggi i leghisti. L'onore e gli interessi degli schieramenti sono salvi. Così i cittadini, in questo caso i minori, diventano terreno di scontro di posizioni ideologiche contrapposte. Nessuna delle parti ha il minimo interesse per loro. Va bene così, tanto peggio, tanto meglio. È la sintesi della politica italiana da quando mi ricordo. La politica che non si occupa altro che di se stessa. La situazione viene sbloccata alla fine da uno sconosciuto, che ha centrato il problema reale, quello che la politica non voleva toccare. I responsabili, cioè i genitori, i servizi sociali, il sindaco e l'opposizione, sono tutti premiati dal loro atteggiamento. I deboli e gli sconosciuti ne fanno le spese. Un cameo dell'Italia odierna. Guido. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. continuate a scriverci